Signore e signori, Gigi D'Agostino. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura, ma la vostra mente viaggia sicura. Verso casa e tu sei il mio camminare. Capito come? Gianni da Roma. Se il 10 febbraio scorso non avessi camminato con te, ieri avrei fatto un San Valentino da single. Capito come? Grazie, Gigi. Ovvio. Sì, non è che siamo qui a snocciolare, eh? Di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello molto a tempo. Marta da Genova. Valentina da Lecco. D. di Torino e sono un po' giù perché ho perso una persona speciale. Mi suoni ginnastica mentale per tirarmi un po' su. Grazie mille. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Ciao Gigi, sono Francesca da Roma. Vorrei dire ad Alessio che lo amo come 14 anni fa. Suonami lo chiamavano Trinità, è la sua canzone preferita. Un regalo dal cuore per un cuore. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Officina emotiva. Sabato 17 febbraio 2007, ore 22. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca 24.000 baci. Latina. Cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti scassa un pochino. Dai, poco sta cassa. Per la mia tonta, ti voglio bene. Il tuo scemo. Tutto a posto. Depresso. Rimani connesso. Ciao Gigi, volevo fare gli auguri a mio marito Salvo, visto che ieri abbiamo festeggiato il nostro primo San Valentino da sposati. Che belle. Ti ascoltiamo sempre. Cinzia. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Marco da Venaria, Torino. Volevo fare gli auguri di buon San Valentino alla mia ragazza, che abita a 100 km di distanza da me, purtroppo. Ma grazie al tuo cammino, Gigi, posso sentirla vicino al mio cuore. Scegli tu una canzone per noi. Ok. Grazie. Like a river, there's hope to the sea. This is the way that it has to be. Come

ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, Tamarro Bizzarro. Volete scrivermi? 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Poco, molto poco, ma io sono poco, ma penso tanto, ma so poco, molto poco, anzi niente. L'uomo sapiente. Penso tanto, ma so poco, molto poco, anzi, niente. L'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello molto a tempo Ale, Nedo e Mene da Como, Saverio da Torino, che ha 36 anni, sti cazzetti. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. cause e nella successione dei fenomeni. Ciao Gigi. Hola puta. Quando verrai a Bari, vorrei goderti dal vivo. Sì, sì. Mary, da Bari. Questo programma musical mental. Olé. Me gusta mucho macho. E che cacho. Sono Pietro. Salutami la compagnia di Andrate e per favore suona il padrino. Un giorno ti chiederò di ricambiarmi il servizio, ma fino a quel momento consideralo un po' in occasione delle nozze di mia figlia. Volevo dire ad Isa che mi ha rubato il cuore e che mi ha fatto innamorare. Ti amo, Mattia, da Milano. Ti amo, Sara. Ivan 78 di Genova. Il cammino di Gigi D'Agostino. Dedico Raga Tanz ad Alessandro, che compie 18 anni. Grazie, Eli. Officina emotiva. Domenica sera, 18 febbraio 2007, ore 21:30. Officina emotiva con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale presso la discoteca Mi Vida, Belluno. Mi sveglio o sonno, però buongiorno. Ho fatto un sogno di quelli porno. Mi alzo in piedi, mi corro intorno. Mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Oh yeah. Mi sveglio, sonno, però buongiorno. Ho fatto un sogno. Faccia, se no mi addormo, mi vesto in fretta con la sciarpetta, mi incrocio vicino ma non mi dovretta, il mio pensiero sta già tremando e la mia mente sta già spaziando, perché

sentiamo domani. Grazie.